get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella di stasera sarà la nostra 320esima trasmissione ed ascolterete il sonoro dell'intervento che il CLR ha presentato alla scuola estiva Bifri 2015 dal titolo Memorie, Narrazioni, Scritture che si è svolto dal 28 agosto al 1 settembre presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Il titolo del nostro contributo che sta per andare in onda è Memoria Collettiva. Un buon ascolto. Allora, innanzitutto grazie a Bifri e grazie ad Antonella, perché poi le cose noi le abbiamo fatte, alcune esperienze le abbiamo fatte con Antonella e quindi noi siamo nell'ambito della politica culturale e nell'ambito della politica culturale scegliamo la politica cosiddetta delle relazioni che tanto pescano nella, diciamo, storia politica del femminismo. E la nostra, il nostro contributo abbiamo dato questo titolo, cioè Memoria Collettiva, il che significa tanto. Noi raccontiamo 20 anni della nostra storia in corso d'opera, come dicevamo prima rispetto alla memoria, quindi non è che poi sia semplice, no, costruirla, però è un raccontarsi, quindi una narrazione del nostro gruppo. E perché Memoria Collettiva? Perché al di là delle persone che ci sono state, sono andate via, altre sono venute, eccetera, quello che era ed è importante è il confronto e quindi l'aspetto collettivo. Però noi siamo un gruppo di donne lesbiche, prima di incominciare appunto a raccontarvi del coordinamento lesbiche romane, volevo fare una piccolissima premessa anche sulla scorta delle sollecitazioni che ha fatto Elena, e cioè legata al discorso della cancellazione o dell'omissione, no? Quindi il non dire, poi c'è anche una cancellazione dell'esistenza delle lesbiche e non siamo certamente noi a dirlo, l'hanno detto prima di noi tantissime donne illustri, però c'è anche quella, la cosiddetta omissione che noi viviamo nel quotidiano e di cui non ci rendiamo conto. Io faccio spesso questo esempio perché secondo me è molto calzante, cioè ci fa rendere conto veramente di. E la domanda che vi faccio, potete rispondere o no, però rifletteteci, è quante barzellette sulle lesbiche conoscete? Ok, quante barzellette, consentitemelo, sui froci conoscete? Una marea, no? Quante barzellette sulle donne conoscete? Un'altra marea. E quindi c'è un modo comunque di raccontare e di mettere sotto, perché le donne nelle barzellette sono delle merite cretine in genere, e le donne stesse le raccontano e ridono quando le raccontano gli uomini. Per i gay funziona più o meno così, però almeno si può dire, purché se ne parli, che se ne parli male. Delle lesbiche, silenzio. Quindi noi non entriamo neanche nel motteggio, e questo la dice lunga. Rispetto a quello che poi vogliono su di noi o quello che accade, per cui poi noi stesse non riusciamo a fare un pensiero su di noi, neanche ironico, e questo anche è un grosso problema, un grandissimo problema. E andiamo oltre. Noi abbiamo fatto varie iniziative e queste sono le locandine e le foto di alcune delle varie tante iniziative che abbiamo fatto. Alcune a titolo CLR, altre in collaborazione con altri gruppi, altre singole, all'interno della casa, fuori della casa, comunque sempre con l'idea del confronto. Il coordinamento lesbiche romane nasce nella primavera del 1995 e andiamo a una manifestazione, la nostra prima uscita pubblica fu una manifestazione, la prima parola e l'ultima, nella quale sfoderammo, e questo consentitemelo con orgoglio, anche se l'orgoglio è una categoria che poco mi appartiene, però con orgoglio, sfoderammo uno splendido striscione con su scritto Lesbian Bell, ed era su campo verde. L'idea di Caterina, dello slogan, poi è stato uno slogan sfruttatissimo nel movimento, ed era veramente ed è tuttora un bellissimo slogan, cioè dire Lesbian Bell, che ce volete di? Ecco, quindi questo come partenza. Nasce quindi il coordinamento Lesbiche Romane e inizia la sua attività presso il Centro Femminista Separatista all'interno di quella che, come ha detto Antonella, oggi chiamiamo Casa Internazionale delle Donne, ma allora era il Palazzo del Buon Pastore, di cui ci onoravamo di far parte perché ancora era fatiscente, ma soprattutto ancora conservava dentro di sé la memoria di quello che era stato, cioè il luogo di detenzione delle donne poco desiderate e poco desiderabili, come noi, per gli altri, per le altre, per il mondo. Noi tra noi ci desideriamo molto, è un'altra cosa. Allora, detto questo, allora come oggi il coordinamento Lesbiche Romane ritiene che qua, all'interno della Casa Internazionale, questo sia uno spazio fondamentale, importantissimo, e che è uno spazio dove poter costruire e mantenere e esportare un pensiero che sia un pensiero originale, meno originale, ma che sia comunque un pensiero collettivo con il quale fare un confronto con il mondo e con le altre donne. E quindi soprattutto il confronto prevede l'incontro e quindi il dialogo tra le differenze, che secondo noi rappresentano una ricchezza, e quindi non un motivo di esclusione, escludente o di solo allontanamento, ma che sia una palestra dove ci si scontra, questo sì, questo va bene, perché dallo scontro, che non è necessariamente letale, nasce invece qualcosa di nuovo. Quindi da sempre ha avuto e continua ad avere importanza per noi alcuni presupposti fondamentali, che sono quindi il bisogno di questo confronto, raccolta e diffusione della pratica e dell'analisi politica, ovviamente privilegiando le realtà lesbiche, anche femministe, lesbiche e femministe, e l'attività di controinformazione per attuare una sostanziale, secondo noi, revisione della cultura dominante che è eterosessista. Allora, come ho detto prima, noi riconosciamo alla casa un'importanza nodale nell'esperienza nostra di gruppo, nel fatto di volerci ancora stare, nel fatto dell'importanza di questo luogo che appartenga storicamente e attualmente alle donne, però nella nostra pratica, la nostra pratica di lavoro ci ha portato sempre di più anche a cercare le realtà esterne e a cercare di tirar fuori una sorta di, noi lo chiamiamo circuito virtuoso, che ci consentisse di uscire con un nostro bagaglio dalla casa e di rientrare nello spazio casa con un bagaglio diverso da mettere in mezzo. Perché questo, noi riteniamo che la contaminazione e le contaminazioni siano un'altra delle cose fondanti il percorso dell'identità. L'identità è, non sono io a dirlo naturalmente, ma sempre donne molto più illustri di noi, l'identità è un percorso in costruzione, un percorso in itinere, e quindi le contaminazioni sono fondamentali. Allora, l'altro elemento, come potete notare, no, dalle diapositive che scorrono, è che le iniziative hanno abbracciato veramente di tutto, no? Quindi le nostre iniziative sono state quelle, se volete, più politiche, e quindi convegni, e quindi incontri politici, e quindi dibattiti a tema, cose di questo genere, cose più culturali, eventi più culturali come presentazioni di libri oppure rassegne di film, eccetera, che comunque fossero sempre a tematica, e poi altre più ludiche che ci sono servite per vari motivi. Uno, all'incontro, perché noi nasciamo come un gruppo che ha intenzione di portare avanti la possibilità di far sì che le donne lesbiche si incontrino, si scambino, si innamorino, progettino, facciano politica, giochino, eccetera, eccetera, e perché questi incontri ci servono anche per l'autofinanziamento, perché siamo un gruppo, non siamo un'associazione, siamo un gruppo, ancora non ci siamo volute dopo 20 anni costituire in associazione, ma in compenso abbiamo avuto voglia comunque di andare avanti, fare delle iniziative, e le iniziative costano. Come ho detto, queste varie iniziative rappresentano la faccia di un unico progetto, che è la politica culturale. Come vedete, vengono fuori via via anche le collaborazioni che abbiamo avuto, no? Noi per esempio Azione Gay e Lesbica, ritornando alla pratica delle relazioni con Elena e con Graziella Bertozzo e con Valeria Santini, abbiamo veramente fatto tantissime cose. Allora, pensiamo sia fondamentale autorappresentarci, perché il sistema di potere non prevede modelli diversi da quelli dati, e dunque il modello culturale occidentale ha in sé come riferimento, manco a dirlo, il maschio bianco, adulto, di classe medio-alta, che detiene nelle sue mani diritti e potere. Da questa figura discendono quindi i diritti di tutti gli altri attori sociali, che quindi saranno o come o meno, di più difficile. Come lesbiche non possiamo riconoscerci, per ovvi motivi, in questo assunto, e quindi ci chiamiamo fuori dall'ordine precostituito, e da qui nasce l'esigenza di una autorappresentazione, e quindi dell'assumere parola su di sé, e anche qui sono sempre tutti assunti femministi, per poter volgere lo sguardo al mondo secondo canoni che ci riconoscano, fondati sulle nostre peculiarità e sulle differenze che ci caratterizzano. Un altro elemento che ci sembra importante portare all'attenzione è l'annosa questione del separatismo. Perché quando andiamo a costruire le varie iniziative, dove diciamo per sole donne, per sole donne, per sole, non diciamo per sole lesbiche, diciamo per lesbiche e per donne, quindi le donne sono incluse, le lesbiche pure, ma solo per donne. E ci dicono ancora separatiste, sì ancora, noi siamo veramente vecchie, siamo ancora separatiste. Io però vorrei portare l'attenzione, qua credo che forse sfonderò una porta aperta, però è quello che noi diciamo sempre nelle varie occasioni. Noi nasciamo come un gruppo separatista, continuiamo a stare in seno a quello che teniamo in vita, perché è una memoria storica anche quella, come centro femminista separatista, perché ha un suo perché nell'esistere ancora come realtà, ma riteniamo che il separatismo, anzi i separatismi, abbiano una loro e abbiano una ragione d'essere. E i momenti di incontro e riflessione tra donne ci permettono di aprire confronti più diretti ed elaborare strategie che sono meno appesantite da quelli che sono gli obblighi e i meccanismi di genere introiettati. È molto semplice questo discorso, no? È quello di prima, è quello che rappresenta l'uno, che è il maschio bianco, europeo, di classe medio-alta, eccetera, no? Però questi obblighi culturali, questi meccanismi, caratterizzano normalmente le relazioni sociali. E non a caso noi diciamo che vogliamo essere meno appesantite. Perché diciamo meno e non diciamo per niente appesantite? Perché sappiamo e pensiamo che comunque, essendo inserite in questa cultura e con tutti gli input culturali che ci arrivano e ci colpiscono costantemente come metacomunicazioni, noi ovviamente ne siamo immerse e ne siamo anche un po' impastate. Liberarcene è molto difficile, e soprattutto scindere, sapere che si può fare una differenza. Non ci stupisce l'attacco che viene fatto oggi al separatismo, ai separatismi e al femminismo e ai femminismi da parte del mondo eterosessista, va da sé. E quindi non ci stupisce quell'attacco, perché di sessismo è intriso il mondo e perché l'organizzazione è tale per cui si basa sullo sfruttamento economico e sessuale delle donne. È necessario mantenere le donne divise tra di loro per meglio poterle controllare, questo lo diceva Greer Rich meglio di noi. e non solo lei ovviamente. Esistono dispositivi che rendono questo possibile, uno di questi è la violenza in tutte le sue accezioni, la povertà, la difficoltà di accedere alle risorse economiche, la scarsa possibilità di ricevere un'adeguata istruzione, lo sfruttamento sessuale, insomma la costruzione culturale del genere con tutte le sue icone e le sue mistiche. Lasciamo perdere le icone e le mistiche, potremmo parlare del matrimonio per esempio, e anche del matrimonio omosessuale, così come viene detto, no? Che è un'altra icona presa in prestito. Quindi non è facile sottrarsi a questo disegno, ed è chiara quindi l'avversione a qualsiasi forma politica che avvicini le donne tra di loro, rendendole interlocutrici privilegiate. Ci stupisce invece un po' di più il revisionismo di parte del mondo femminile, e femminista direi, che ancora rientra a pieno titolo nella cultura del consenso. Fatto salvo il rispetto delle differenze, riteniamo che dire che la pratica del separatismo sia ormai superata, ghettizzante e per certi versi dannosa, perché ostacolerebbe la crescita consapevole degli uomini che se la facessero tra di loro, sia non rispondente alla realtà. Il confronto tra donne, la narrazione dei vissuti, come abbiamo detto fino ad ora, l'elaborazione comune sono un percorso fondamentale per il riconoscimento del proprio valore e della propria autorevolezza. Insomma, una presa di coscienza e di potere su di sé, e potere significa poter essere, mettersi in, quindi non significa esercitare potere su altre, ma avere il potere, assumerlo proprio su di sé. Queste modalità diverse non sono in contrasto tra loro, ma anzi, per il principio dei vasi comunicanti, possono essere terreno di crescita e di confronti successivi. E dirò di più, il separatismo, le donne, i separatismi, le donne le mettono in atto continuamente, le colleghe di lavoro si vanno a fare la pizza insieme, non ci sono gli uomini, se la vanno a fare tra di loro. Questa è una forma delle donne di stare per loro conto. Dico la pizza per dirne una, andare al cinema, tutte donne, è tutte donne signore, non può entrare. Allora, e quindi, così come qui alla casa, gli stessi gruppi che nelle forme, diciamo, pubbliche dicono che il separatismo e i separatismi sono superati, sono quelli che poi fanno politica tra donne qua e si incontrano tra donne. Quindi è questa la cosa che a noi resta difficile capire. Com'è? Qual è lo scarto? Com'è questo passaggio? Perché si mette in atto una pratica? Perché non è un'ideologia, è una pratica il separatismo. È come di mi riunisco, quindi mi riunisco tra donne, invece di riunirmi tra donne e uomini. Quindi mi riunisco, dopodiché nego quello che ho fatto fino a un'ora prima quando esco pubblicamente per dire di me che non sono separatista. Ok? Stessa cosa per l'uso non sessista del linguaggio, ma questo è un altro argomento che ci porterebbe fuori. Allora, secondo noi, questo non riconoscere la politica tra donne, quindi le forme separate, le forme varie delle pratiche tra donne, del fare politica, non riconoscerle, non nominarle, indebolisce le donne, indebolisce le loro pratiche e le loro forme politiche. A scanso, a scapito, non si sa bene di che cosa, probabilmente sono forze del dominio culturale che entrano a far parte di noi, del nostro DNA, dovremmo insomma fare qualcosa. Comunque ci preme ricordare che la crisi economica mondiale, ancora una volta in Italia come altrove, colpirà le donne e colpisce le donne prima di tutti. Proprio quelle donne che ancora oggi sono le meno pagate, entrano meno nel mondo del lavoro, nonostante siano spesso più istruite, sono le prime ad essere licenziate e via discorrendo. Chi se non noi potrà lottare per la difesa dei diritti da sempre negati, quelli delle donne e quelli delle donne lesbiche? È solo dalle donne che potrà arrivare il cambiamento. Chi detiene privilegi non li abbandonerà spontaneamente a vantaggio di altre persone, le donne per esempio, che non li hanno. E non apriamo nessun capitolo sulla grande ferita dei femminicidi, perché questa è un'altra cosa ancora a parte. Allora, nella nostra esperienza comunque abbiamo riscontrato come il separatismo e i separatismi siano invece tanto praticati, come dicevo ora, no? E quindi è l'ora che le donne ricomincino a nominarlo, ricomincino a riconoscere quello che fanno, senza dare retta sempre con l'orecchio all'esterno a che cosa dicono gli altri. Oh, che cosa ci ha salvaguardato in questi anni di storia e in questa evoluzione di pratica del separatismo? Perché anche per noi si è evoluta, è cambiata, si è evoluta non perché è diventata migliore, è perché è andata al passo con i tempi. Un esempio per tutti, avete visto per esempio la radio, che partiamo con la radio è stata una delle rielaborazioni del separatismo. Noi siamo in una radio che è mista, cioè fatta da uomini e donne, la Bionda Rossa, però all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito. Questo non significa che se c'è da fare l'autofinanziamento per la radio tutta noi non la facciamo, la facciamo. Se c'è da fare una riunione redazionale, se c'è un problema, riunione redazionale generale, se c'è un problema che riguarda tutta la radio, noi non ci andiamo e incontriamo quindi anche gli uomini che danno vita alla radio. Quindi le nostre forme sono cambiate, la nostra forma del separatismo è cambiata e continuiamo a evolverla nel tempo a seconda delle interlocuzioni che noi abbiamo, quelle che privilegiamo, quelle che sono significative. Quindi nell'organizzare cose insieme, le cose per esempio come gli esempi che ho fatto prima, la radio, adesso, Antonella, Elena, eccetera, nel lavoro si condividono le cose, si fa un progetto, può finire quella collaborazione con quel progetto o può aprirsi a nuovi progetti con ulteriori interlocuzioni. Questa è la pratica delle relazioni. E quindi che non è solo lo stare insieme tra di noi, il gruppo Coordinamento Lesbiche Romane, ma è tutte le relazioni che negli anni abbiamo costruito o che si continuano a costruire. Allora, ora nel vedere scorrere le varie, no, che vi hanno un po' catturato, e perché ci piaceva che vi catturassero, adesso andiamo alle varie iniziative che abbiamo fatto. Ne avrete vista una, che è per esempio quella di Novi. Noi abbiamo incontrato un gruppo, tre donne, che sono tre donne mediatrici culturali. A un certo punto è venuta alla ribalta, e ve lo ricorderete perché ne avrete memoria anche voi, tutta la questione della infibulazione e della clitoridectomia, scusate la parola lunga ed è terribile, e in quegli anni, come adesso per Casa Monica, come adesso per gli immigrati, no? C'è la notiziona o le notizie che appaiono sui giornali, quelle ci stanno costantemente e le altre via, quelle più importanti o quelle pur non risolvendo le notizie che ci mettono, no? Allora, una delle notizie che andò in auge qualche anno fa era proprio questa sull'infibulazione e sulla clitoridectomia delle donne straniere residenti in Italia. Ci fu una grande alzata di scudi, ipotizzarono di fare delle norme, di rivedere le leggi, di fare qui, di fare lì, di fare sotto, di fare sopra, ma insomma questo argomento occupò i media per un tempo veramente lungo e noi ci interrogammo. Da parte nostra, come Coordinamento Lesbiche Romane, non siamo quelle che cavalcano la notizia, non ci interessa cavalcare la notizia, è se quell'argomento sentiamo che da qualche parte ci riguardi, ci coinvolga, che allora noi ci interroghiamo, e questo sentivamo che ci coinvolgeva molto perché riguardava comunque le donne e riguardava delle espressioni culturali. Quindi attraverso AIDOS, che è questa associazione associazione italiana donne per lo sviluppo, riuscimmo ad avere il nominativo di tre mediatrici culturali africane di religioni diverse, per cui una era copta, una era cattolica cristiana, una cristiana ortodossa, scusatemi, una musulmana, quindi tre religioni diverse, e che però lavoravano come mediatrici culturali in relazione alle loro comunità. E le riuscimmo a contattare, riuscimmo a fare delle riunioni con loro perché volevamo affrontare insieme, volevamo costruire insieme qualcosa rispetto a questo fenomeno che stava diventando un fenomeno da baraccone, per cui diciamo che i media, ma lo Stato, ma l'opinione pubblica entrava a gamba tesa rispetto a questa cosa, senza però che le voci di queste donne, che le voci di queste comunità venissero fuori. E quindi ci confrontammo, vedemmo insieme che Aidos aveva prodotto sull'infibulazione e sulla clitoridectomia un documentario, lo vedemmo insieme e noi che l'avevamo già visionato, nel vederlo insieme a loro tre, rimanemmo sorprese da quanto loro si erano incazzate, si erano proprio arrabbiate tantissimo, perché veniva definito una pratica barbara. E loro ci dissero, in quell'occasione, ci dissero che le madri e le donne delle loro famiglie che le sottoponevano a questa cosa terribile lo facevano perché le proteggevano da quello che se no sarebbe potuto essere il loro destino, in quanto non avendo fatto quella pratica, perché venivano ritenute prostitute. E questa cosa era immersa in una cultura, comunque loro rivendicavano un percorso che tenesse conto delle loro portate culturali, delle loro relazioni tra donne e degli affetti che passavano comunque nonostante tutto attraverso tutte le loro vicende. Premetto che le tre donne, appunto, il fatto che una cosa che veniva fuori era che questa pratica riguardava l'Islam e comunque riguardava la religione musulmana, non era vero, e l'incontro con queste donne per noi smentì quest'altra falsità culturale, no? E comunque facemmo questa iniziativa. Ma la cosa bella fu l'incontro, dove loro ci dissero dopo che si erano sentite accettate da noi, accettate nel senso si erano sentite in una sorta di compenetrazione con noi, di un dialogo alla pari, molto più che all'interno delle loro stesse comunità. E poi venne fuori qual era, perché noi lo chiamammo oppressione a confronto, qual era l'oppressione delle lesbiche, quando una delle tre, Zainish, che era poi una molto politicizzata ed era una donna veramente in gamba, è una donna veramente in gamba, ci disse che noi facciamo due iniziative, una che era quella politica, con questa forma di conferenza, assemblea, insomma, con l'incontro delle donne, e una invece di autofinanziamento, e demmo i soldi poi a Nodi, perché aveva bisogno poi che era Assaggiamoci, cioè la loro cucina e la nostra cucina, e chi veniva pagava qualcosa e quindi insomma. E lì ci disse Zainish che le donne della sua comunità, dal momento che avevano fatto un'iniziativa con le lesbiche, non erano venute. E quindi praticamente delle loro comunità c'erano pochissime donne, anzi quasi nessuna, e c'erano donne, diciamo, della nostra comunità, lesbiche c'erano. E lei mi disse in quell'occasione, adesso ho capito, ho sempre pensato di voi che eravate strane, comunque non mi piaceva questo fatto che andavate per strada senza tenervi per mano, perché non facevate vedere il vostro amore, se di amore si parla, eccetera. Poi quando ho visto la reazione della mia comunità rispetto all'ostracizzazione che lei stessa aveva avuto per aver partecipato e fatto qualcosa con le lesbiche, disse, ah cavoli, ci avete ragione. E quindi le fu ben chiaro il livello di oppressione culturale e non solo che pativiamo e che patiamo noi in quanto lesbiche. E quindi i presupposti fondamentali per quegli incontri furono, manco a farlo apposta, la politica delle relazioni, il contesto separato e il partire da sé. Rivedemmo insieme il documentario e facemmo un montato diverso. Pur mantenendo l'originale, aggiungemmo una serie di pubblicità in fondo al documentario, dove le donne erano rese in Occidente oggetto e quindi stavano sul panino con la maionese, una donna nuda, sopra una cofana di una macchina, un'altra donna nuda, e via discorrendo, e con una voce fuori campo che diceva pratica evoluta occidentale. e con quello si concluse questa storia con loro. E ci piace molto, e ci ha dato molto. Questa, per esempio, è una di quelle che noi abbiamo definito politiche e sulle quali siamo veramente cresciute molto. Avete visto poi nello scorrere, ce ne sono state tante altre, c'è stata per esempio insieme alle compagne universitarie, le compagne di Radio Onda Rossa, eccetera, abbiamo presentato il film No, con Aisha Sadda, come si chiamava Aisha Sadda? Simon, che nel giro in Italia è poi venuta a Roma e qui alla casa l'abbiamo voluta fortemente, abbiamo fatto, proiettato il film e il documentario in realtà sulla realtà nera e le donne nella comunità nera, e ovviamente il riscontro nostro. Tre, andiamo alla lesbotombola, che avete visto, no? La lesbotombola. Allora, è una delle attività ludiche, diciamo, più durature, più significative sotto vari punti di vista per il coordinamento lesbiche romane. Intanto siamo arrivati all'11ª edizione, quindi è veramente una cosa che ci ha accompagnato negli anni. E questa è nata nel 2002 da un'idea originale di Annalisa, che avrete visto, una compagna nostra del coordinamento lesbiche romane. E che ha fatto Annalisa e che abbiamo fatto poi insieme, no? Abbiamo rivisto la tombola e all'interno della tombola abbiamo inserito una serie di figure femminili associate al classico gioco dei numeri. Ora, la lesbotombola ha avuto uno scopo fondamentale, che è quello dell'autofinanziamento, non lo nascondiamo, lo sappiamo, e però anche a quella di riscoprire, e questo è un altro nostro pallino, personalità dimenticate o comunque non tenute in conto, secondo la nostra giusta considerazione, dal caso dalla storia o da altro. Non a caso il numero uno della nostra lesbotombola è Saffo. Allora, alcune di queste donne erano e sono lesbiche, che si riconoscono come tali e che si nominano, hanno fatto coming out, eccetera. Altre non lo sono e non l'hanno dichiarato perché non lo sono, ma ci è piaciuto, ci sarebbe piaciuto tanto che lo fossero, e comunque per noi hanno avuto una forza e hanno una forza trainante. Altre lo sono e non lo dicono, noi le abbiamo inserite dicendo che erano delle icone e non necessariamente delle lesbiche. In questa maniera noi ci siamo messe al riparo da eventuali azioni legali, perché non è che tu puoi fare coming out a quell'altra. E siccome secondo noi una delle pratiche politiche del femminismo, un capisaldo, è il partire da sé, io non è che parto da quell'altra, io parto da me, io mi dichiaro lesbica, io mi firmo, io ci metto la faccia, non ci metto la faccia di quell'altra. Allora, la nostra prima edizione è stata lunghissima nel farla, perché di ogni numero che usciva, ogni figura, ogni donna, c'era la descrizione, dicevamo chi era. E nella vendita quindi aveva tutta, era corredata anche del promemoria delle donne che ne facevano parte della lesbotombola. Nelle occasioni della lesbotombola, tra l'altro, come delle altre varie iniziative che noi facciamo, gli altri gruppi donne che vengono hanno anche l'occasione di poter dire qualcosa circa altre iniziative e quindi propagandare altre iniziative. E se considerate che era il 2002 e allora la rete non era come ora, adesso va tutto in rete, adesso è tutto molto veloce, era un bel modo per fare pubblicità e comunque per conoscere diverse cose. Detto questo, la nostra lesbotombola attualmente è aggiornata, attualmente è in forma digitale, e sia in forma cartacea che in forma digitale ha girato tutta l'Italia, e noi ne siamo contente, perché comunque è stata una bella operazione. Anche perché Natale è la festa per eccellenza della famiglia, e invece vedere tante donne lesbiche che si uniscono per tirare i numeri della buona sorte insieme ad altre donne lesbiche in una sorta di sfamiglia, S-famiglia, finalmente, ebbè, è un gran godimento, credete? E questa è la lesbotombola. E questo fa cultura, credete, è un altro elemento del fare cultura in una maniera diversa, cioè porsi al di fuori di alcune mistiche etero orientate, come appunto la festa di Natale, che è la festa della famiglia classica. La presentazione di libri. qui adesso, manco a farla apposta e non ce lo siamo dette, anche noi prendiamo in prestito il libro Fuori della Norma, perché è uno dei libri che abbiamo presentato con stragrande piacere. Perché? Perché ne abbiamo presentati tanti e l'avete visti scorrere a questo punto, però Fuori della Norma per noi è stato un libro molto importante da presentare, perché costituiva per noi, e costituisce, un elemento di memoria importante sulla memoria delle donne lesbiche, e una operazione che noi abbiamo salutato con grande entusiasmo, perché la prima in Italia di questa specie, in questa direzione. Quindi una di queste attività ricorrenti che riguarda la politica culturale è la presentazione di libri. Ancora una volta, non è che noi presentiamo qualsiasi libro, presentiamo un libro che sia a tematica lesbica o scritto da lesbiche, e che comunque in quell'ambito si collochi. Pensiamo che sia molto importante partire dai nostri vissuti per rappresentarli e rappresentarci, quindi l'operazione del scrivere un libro, del metterci la firma, del metterci la faccia, del fare coming out, e un coming out importante come quello di mettersi nero su bianco, appunto, riteniamo che sia, anche se talvolta non siamo state completamente in accordo con quello che il libro riportava o con l'operazione stessa della costruzione di quel racconto, di quella narrazione, però abbiamo ritenuto comunque importante dare uno spazio. Faccio una piccola, visto che parliamo di memoria, faccio una piccola digressione. Quando io sono arrivata a Roma e sono entrata nel CLI, allora c'era Rosanna Fiocchetto. Rosanna è un'altra donna importante nella mia vita, perché insomma, mi ha accolto in un momento per me molto complicato in cui venivo a Roma per amore, ed è stato il gruppo politico in cui io mi sono sentita finalmente riconosciuta a tutto tondo. Rosanna diceva sempre che sarebbe stato importante che ci fosse una Liala Viola, perché così le donne lesbiche, giovani e meno giovani, avrebbero potuto finalmente riconoscersi all'interno di una rappresentazione accettabile, dove l'amore vinceva tra le donne. A quei tempi c'erano i film, per esempio, che uscivano sempre: quella moriva, quell'altra si strangolava, quell'altra si impiccava, insomma, se poteva proprio. Allora, ritornando al saggio Fuori della Norma, storie di lesbiche nell'Italia della prima metà del Novecento, le varie autrici che hanno partecipato hanno preso in esame appunto un tratto di storia dove delle lesbiche non si sa niente, e che però invece durante il regime fascista, non è vero che le lesbiche non erano note, erano note, ma a differenza degli uomini, in Germania ancora di più, sia chiaro, a differenza degli uomini non venivano prese in considerazione seriamente. Questa è la stessa storia delle barzellette, no? È uguale, cioè se tu proprio non ne parli non esisti, quindi neanche al Confino. Poi al Confino ce ne mandavano uguale, però ce le mandavano su un'altra motivazione. Quindi le autrici, tra cui c'è appunto Elena, hanno preso in esame quel periodo storico andando o a rintracciare le fonti orali, ma anche, per esempio, andando a mettere a confronto vari tipi di scrittura, come ha fatto la Schettini, che è stata quella, la scrittura medica ufficiale e la scrittura dei media di allora, come si parlava per esempio delle travestite, e lei prende in esame, la Schettini prende in esame, poi ha fatto dopo un libro sul travestitismo, fine 800, inizio 900, eccetera, quindi come venivano descritte le donne che si travestivano, le donne che si facevano passare per uomini. E andiamo. Prima della radio, di cui vi parlerò per ultima, abbiamo voluto parlarvi di un'altra iniziativa politica, e questa è quella del 25 aprile del 2009. Per quell'occasione abbiamo collaborato con Antonella e abbiamo fatto una 2 giorni di incontri alla sala sopra qui alla casa e abbiamo organizzato qui all'interno perché ci sembrava giusto dare memoria alle sopravvissute o alle donne sterminate nei vari campi e alle varie situazioni che si erano venute a creare durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, quindi abbiamo naturalmente rivolto il nostro sguardo alla condizione di prigionia delle donne nei campi di sterminio nazifascisti. Il 24 aprile inaugurammo una mostra che era Le SS ci guardavano, per loro eravamo come scarafaggi, e questa mostra sulle donne ebree deportate era a cura di Azione Gay e Lesbica, quindi Elena, ma curata da Graziella Bertozzo, e inaugurammo quella mostra e poi ci fu una sessione di dibattito tra Graziella Bertozzo di Azione Gay e Lesbica, Monica Cristina Storini, che è una docente universitaria, e Antonella Petricone, che è di BeFree, sulla condizione appunto della deportazione, e poi a seguire un mediometraggio che è Le ragazze del ponte. Non so se voi avete avuto modo di vederlo, se potete cercatelo, perché è di Emanuela Giordano, è del 2001 e parla dell'eccidio di 10 donne che sono state rastrellate nel territorio romano e la ricostruzione storica degli assalti dei forni del pane dei tedeschi che fecero quelle donne. C'è una lapide al ponte di ferro qui a Roma, e però queste donne vengono scarsamente ricordate nella ricorrenza del 25 aprile. Il 25 aprile, quindi il giorno successivo, facemmo invece l'incontro sempre con Antonella e con Mirella Laurenzi Stanzione, che è una sopravvissuta del campo di concentramento di Ravensbrück. Ora, il campo di concentramento di Ravensbrück, che poi noi come CLR siamo andati a visitare, è vicino a Berlino, 80 km da Berlino, ed è stato un campo di concentramento in cui sono passate non le ebree, ma le donne, e ne sono morte a migliaia, veramente tantissime donne. Era un campo femminile, appunto, e in questo campo c'erano anche le lesbiche, che però passavano normalmente non come lesbiche, ma come comuni o come associati, ed erano i vari triangoli, no? Per cui non era il triangolo giallo, come anzi la stella, perché era per il triangolo giallo comunque per gli ebrei, ma era il triangolo rosa oppure il triangolo nero, il triangolo rosso, scusami, il rosa era per gli omosessuali. Quindi il triangolo rosso e il triangolo nero, così passavano le lesbiche, e in quei campi non starò a dilungarmi più di tanto, però è una storia che è importante ricordare rispetto all'elemento cancellazione, perché le donne sopravvissute e ritornate, e questa è la testimonianza di Mirella Stanzione, dovettero giustificarsi una volta ritornate in patria del fatto che erano sopravvissute, perché quello che veniva detto loro, il dubbio che veniva comunque espresso o mal espresso, ma comunque pesava, era che loro fossero o collaborazioniste, se erano sopravvissute, oppure se erano prostituite. E questo è veramente una cosa indicibile. E la storia delle donne sulle quali hanno fatto le peggiori sperimentazioni, perché per esempio sulle donne polacche venivano chiamate le conigliette per come camminavano, perché venivano fratturate, aperte ferite, infettare, e poi messi i primi antibiotici che i medici nazisti sperimentavano per vedere se potevano guarire, se che cosa succedeva, per poi poterle dare ai soldati al fronte. Mi sono spiegata? E venivano chiamate le conigliette, perché quelle che sopravvivevano, ovviamente siccome avevano fratture che non venivano rimesse a posto, ma venivano lasciate così, poi saltellavano, quindi avevano l'andatura delle conigliette. Ok? Quindi queste sono le storie di queste donne di cui non si sa e non si racconta ancora oggi. La parola su di loro, le donne l'hanno presa molto tardi, anche i sopravvissuti l'hanno presa molto tardi, ma le donne ancora meno. E questo fa parte della storia comune delle donne, e noi lesbiche apparteniamo a pieno titolo, e la cancellazione è l'omissione, è l'insignificanza, è una costruzione precisa. In questo senso noi abbiamo voluto fare il parallelo, e questo per noi è stato molto chiaro. È stata un'esperienza toccante, molto forte. Alla fine della seconda giornata è stato poi proiettato Le Rose di Ravensbrück, la storia di deportate italiane di Ambra Laurenzi, che è la figlia di Mirella. E quindi la figlia poi ha fatto un documentario che è andato nelle scuole. Vabbè, insomma, questo è quanto. Non mi dilungherò oltre, ma ci piace ricordare che i gay, in questo caso, soprattutto in Germania, non hanno potuto chiedere risarcimenti come hanno potuto chiedere tutti gli altri, perché ancora le leggi contro le omofobe sono state fino agli anni 70 in vigore, per cui se si dichiaravano che erano stati messi in carcere come omosessuali, non solo non risarcivano un bel paio di niente, ma magari li mettevano in galera. Quindi questa è una storia veramente pesante. Cancellata. E veniamo alla radio. La radio è l'altra iniziativa delle più longeve, e se come coordinamento lesbiche romane abbiamo 20 anni di storia dalla nostra, come radio ci stiamo arrivando, perché l'attività radio per noi nasce nel 1997 e nasce dalla necessità di concretizzare quel discorso culturale di cui parliamo, cioè l'esportare, il portare fuori il nostro pensiero, il poter dire qualcosa sul mondo, a partire da qualcuna prima di me, non sto a dirvi chi, dice da uno sguardo eccentrico, un mettersi ai margini e via, però averci uno sguardo, è quello che noi abbiamo voluto fare. La radio e le compagne del martedì, che allora si chiamava solo Martedì Femminista Autogestito e che dopo un po' si è cominciata a chiamare Martedì Femminista e Lesbico Autogestito, ci hanno accolto. Loro già da 2 anni facevano le trasmissioni e noi siamo arrivate nel 95 e nel 97. Allora, anche qui della collaborazione ve ne ho parlata, quindi non vi sto a dire, però è stata la forma, per esempio, il rivedere il nostro separatismo, la nostra forma di pratica politica, reinvestendo sulla pratica, e non sono operazioni facili. E poi l'altro è che, diciamo, le riunioni redazionali ci obbligano a pensare un argomento, a macinarlo, a cercare contributi, eccetera, e poi a elaborare qualcosa da restituire all'esterno, e ci ha permesso tantissimi incontri, perché poi siamo andati su un sacco di tematiche che riguardavano la storia, per esempio l'andare a riscoprire le personaggi dimenticate, oppure fatti contingenti, oppure i film, recensioni di vario genere, incontri politici, interviste. Abbiamo intervistato le donne che facevano delle iniziative di lavoro, per esempio, oppure case editrici, insomma una serie di cose, però ci hanno messo in tante relazioni. E questa è una cosa molto importante. Ed è niente, vi lasciamo con questo discorso dicendovi soltanto un'ultima cosa: come si chiama la nostra trasmissione? La nostra trasmissione, che va in onda ora ogni 15 giorni nello spazio serale, si chiama È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Abbiamo preso in prestito una frase di un film degli anni 60 che si intitolava L'assassinio di Sister George. Sister George era una donna lesbica in realtà che faceva un serial televisivo a Londra, e in questo serial lei era un'infermiera, Sister George per l'appunto. Poi decidono che l'avrebbero eliminata dal serial televisivo. Lei aveva una storia con una giovane donna, lei era una donna più grande, e aveva una fidanzata, una giovane donna con cui viveva insieme, e loro due litigavano sempre. In una delle liti la giovane dice a Sister George: ma non sono mica tutte lesbiche arrabbiate come te.